Effetti eloquenti. Sul finire del 600, l'imperatore d'Austria, Leopoldo II, scriverà a un suo ministro, durante un soggiorno a Gorizia, dopo aver esaltato la limpidezza del cielo, la mitezza del clima, la serenità del paesaggio, che si sentirà tutto furlano. Nella schiera dei chiari ingegni che sostano sulle sponde dell'Isonzo, il giovanissimo Carlo Goldoni, che, ospite dei conti lantieri a Vipacco, li diverte con le marionette e prodiga versi e minuette alle belle goriziane, che in famiglia parlano invariabilmente la lingua friulana. E qui vanno elogiati taluni che, appunto, nella parlata natia, esaltano il ristoro dei buoni cibi e degli eccellenti vini del luogo, che piangono e ridono in comunità di sentimenti col popolo, da cui traggono immediata ispirazione. Ne sia esempio il lagno della zitella del barbiere Luigi Merlo, che ebbe gran voga una quarantina d'anni fa. Il poeta soleva rivestire di rime e di musiche persino le liste cibarie dei noti ritrovi alla posta e da Siora Nani, e lo faceva con brio. Eccone un esempio. Ne possiamo dimenticare, grazie a Dio, Isaia Ascoli, al cui nome si intitola la Società Filologica Friulana, glottologo insigne che per primo attribuì al nostro parlar materno l'autonomia e la dignità di una lingua dai caratteri inconfondibili. Ma lo scudo della friulanità di Gorizia, strettamente premuta da slavi e tedeschi nel tentativo di risospingerla oltre l'Isonzo, fu da 100 anni a questa parte il comune, l'amministrazione civica eletta dai cittadini, con i suoi 17 borgomastri, commissari, podestà e sindaci, tutti friulani. Di una cittadina di 10.000 abitanti, quanti ne contava nel 1830, essi ne fecero una di quasi 50.000, con ampie vie e piazze moderne, con i due corsi lungo i quali si schierano le più belle costruzioni, con giardini e placide ville, che furono e sono soggiorni ricercati, benché il confine di Stato che corre tra le case e gli orti del suburbio costituisca un elemento sfavorevole alla vita e al sviluppo della città. Ma di Gorizia odierna vi dirà, con la passione e la competenza che gli sono proprie, il suo sindaco, Ferruccio Bernardis. Amici lontani, la mia voce trema nell'inviarvi il saluto della nostra città. Trema di commozione l'animo mio, perché voi siete senza dubbio i cittadini più affezionati a Gorizia, quelli che la ricordano con più nostalgia, quelli che la sognano con maggior palpito d'amore, specialmente nelle ore più sconsolate. È dal vostro ricordo che ci viene la forza di amarla, di abbellirla, di potenziarla, questa nostra dorata città. Sorgono così sempre nuove case per i senza tetto, nuovi stabilimenti per i disoccupati, nuove scuole per l'educazione dei nostri figli. S'aprono nuove vie e la città si estende sempre più bella e operosa. Tutti conoscono i nomi dei colli, dei monti che furono teatro di sanguinose lotte nella prima guerra mondiale. il Podgora, il Sabotino, il Montesanto, il San Gabriele, il San Michele, con le quattro combattutissime cime, ai piedi delle quali azzurreggia l'Isonzo. E da Gorizia, conquistata nel 1916, ricongiunta per sempre all'Italia nel 1918, che sorge e si diffonde l'inno della fraternità friulana, quel canto del Friuli che Ugo Pellis, letterato e poeta di alta levatura e di grande modestia, scrisse al tempo dell'irredentismo. Maschio profetico canto che nella chiusa afferma: guai a colui che disceso dai monti tentasse di rubarci questa lingua e questa terra. Come un sol uomo ci batteremo fino all'estremo per la nostra terra. Meglio morti per essa che piegarci come schiavi. Sin furlans, siamo friulani, dall'Isonzo alla Livenza, dalla Carnia sino al mare. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo. Profilo di paesi, Gorizia. Testo di Carlo Luigi Bozzi. Musiche di Evi e di Cesare Augusto Seghizzi. La prossima trasmissione dedicata agli emigrati avrà luogo il 24 settembre per l'America settentrionale e il 29 settembre per l'America Latina. Ripetiamo, la prossima trasmissione dedicata agli emigrati avrà luogo il 24 settembre per l'America settentrionale e il 29 settembre per l'America Latina.